Con Ottavia Bianchi e Giorgio Latini, direttori dell'Altrove Teatro Studio a Roma, per parlare dello spettacolo Misterioso, un viaggio intorno a Thelonious Monk di Stefano Benni, con Stefano Benni e al pianoforte Umberto Petrin. Ottavia e Giorgio, ben trovati. Ciao, Grazie. grazie, grazie. Siamo molto felici di essere qui con te e con gli ascoltatori. Siete in due, vi alternerete nelle risposte. Cominciamo descrivendo questo spettacolo. Intanto siamo assolutamente onorati che Stefano Benni abbia voluto farci questo regalo già dalla nostra inaugurazione dell'anno scorso e poi dalla regia di un suo testo, da Blues in 16. Ha insomma, deciso di farci questo regalo e quindi verrà per Misterioso, Viaggio nella solitudine di Thelonious Monk. È una lettura che vuole svelare gli aspetti meno conosciuti e più interessanti di questo jazzista famosissimo, con lui c'è cioè, fatto Umberto Petrin. Ed è comunque un'esperienza molto bella, molto particolare. Da sentirlo suonare, che dire, il pubblico insomma, che gira già intorno al teatro è molto molto interessato ed è uno spettacolo che da anni riscuote molto successo, insomma. Lo spettacolo si inserisce in un ciclo più complessivo dedicato a personaggi del mondo della musica. Sì, abbiamo una parte della stagione, quattro spettacoli su 14, sono in realtà concerti, spettacoli in cui quindi cerchiamo di descrivere alcune delle figure più significative e interessanti della storia della musica, perciò a questa lettura concerto su Thelonious Monk seguiranno poi un concerto su Liszt, uno sui poeti e i musicisti della Beat Generation e uno su Chopin, quindi cercando di insomma, alternare un pochino l'attenzione alla musica più classica e quella più moderna. Diciamo ci sono due filoni paralleli, ma con la stessa struttura. Tornando allo spettacolo, che ritratto emerge di Thelonious Monk, da parte di Stefano Benni? Beh, Benny sicuramente è uno spettacolo che ha rodato molto nel tempo, quindi hanno una capacità, come aveva Monk, aveva una grande capacità improvvisativa, per quanto ci sia un canovaccio, un testo che esiste, Benny e Petrin si ascoltano moltissimo fra loro e hanno la capacità di reinventare ogni momento dello spettacolo, però sicuramente emergono gli aspetti meno noti, meno conosciuti, poetici, anche gli aspetti diciamo umani di questo jazzista con una vita silenziosa e tragica e veramente che colpisce a tratti. Come si compone materialmente lo spettacolo tra parti parlate e parti musicali? Direi che è ottimamente bilanciato, spesso c'è un tappeto musicale anche su cui la voce di Benny si sovrappone, diciamo che è veramente orchestrato, direi, tra virgolette, molto bene, perché io lo chiamerei proprio una lettura drammatica in forma di concerto. Si sposa benissimo la parte teatrale, più letteraria, la fabula, diciamo, quindi anche della storia di questo personaggio e anche la musica che fa a volte da contraltare per creare proprio delle atmosfere, ma altre volte invece la fa proprio da padrona, quindi direi che comunque c'è un ottimo equilibrio anche da questo punto di vista qui, diciamo, drammaturgico musicale. Dato che è la prima volta che ci sentiamo, parliamo anche della realtà dell'Altrove Teatro Studio. Certo, guarda, con molto molto molto piacere. Questo è un teatro nuovissimo. Noi abbiamo aperto dopo lunghe ricerche e lunga fatica il 19 febbraio scorso. È stato tanto desiderato per anni, direi, da me e Giorgio, che sono comunque già una decina d'anni che siamo in arte, no? Tra virgolette, e voluto e materialmente proprio anche costruito perché abbiamo partecipato attivamente. Ed è uno spazio che si articola su 500 metri quadri ed ha diverse zone. C'è la zona vera e propria della sala teatro, sono 99 posti con un palcoscenico degno, insomma, perché ci piace dirlo, ci piace fregiarci di questa cosa, sono 6,5 metri, per 6,5 metri, quindi è un buon palco. Ci sono anche delle sale prova, una molto grossa di 90 metri quadri, un'altra di 50, che sono dedicate a prove, anche alla formazione, perché ci sono delle diverse realtà anche formative dentro la nostra struttura. E poi è bella, insomma, anche raccontare la storia di come è nato questo teatro, perché è uno spazio completamente recuperato, perché era proprietà di un sindacato di giornalai che l'aveva acquistato quando è stato costruito lo stabile nel 62 per farne dei garage, ma era completamente abbandonato e in disuso, che è stato un problema da un certo punto di vista, ma anche una risorsa, perché partendo da totalmente zero non esisteva neanche un tramezzo, una porta, non c'era nulla. Abbiamo potuto disegnare uno spazio sia a misura di attore, ma soprattutto a misura di pubblico. L'ultima cosa che, scusa, ci terrei tanto a dirlo è fare un ringraziamento perché venendo al teatro, scendendo, c'è proprio una rampa da scendere, che appunto era la rampa di un ideale garage mai utilizzato, ma adesso i muri sono affrescati da il bestiale di Cristina Gardumi, che è un'artista insomma abbastanza importante, ormai quotata, che ci ha voluto fare questo regalo, cioè ha fatto questi disegni bellissimi e la gente quando è aperto si ferma anche soltanto per venire a vederli, quindi ci teniamo a ringraziarla costantemente per questa cosa, molto molto bello. Quindi l'arte a tutto tondo, direi. In chiusura ci lasciate tutti i riferimenti web? I nostri riferimenti potete trovare la pagina Altrove Teatro Studio su Facebook e da lì potete tranquillamente o cercarci anche su Google, dove trovate tutti quanti i nostri contatti telefonici, Instagram, social, e a breve, insomma, stiamo cercando di ultimarlo e probabilmente all'inizio dell'anno prossimo vareremo il nostro nuovo sito internet, dato che è in ristrutturazione. Però è tutto raggiungibile dalla nostra pagina Facebook. Ricordiamo allora l'appuntamento con Misterioso, un viaggio intorno a Thelonious Monk di e con Stefano Benni, al pianoforte Umberto Petrin, a Roma, all'Altrove Teatro Studio il 27 ottobre. Un saluto e un ringraziamento ai direttori Ottavia Bianchi e Giorgio Latini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, Grazie, a grazie davvero, presto. viva il lupo!